era stretta a te. Grida forte al mondo la libertà. Stringi la mano alla gente senza più confini. Diamo un sorriso e speranza ai popoli oppressi. Fai volare nel cielo segni di pace. Il mondo ha bisogno di libertà. E tu, fratello, non uccidere. E tu, fratello, non odiare. E tu, fratello, abbracciami. Corri sorriso, vai da chi sta soffrendo. direttamente l'anima, chiedono risposte. Eterna battaglia che cammini nella notte. Ascolta il pianto e riprendi la lotta. E tu, fratello, non uccidere. E tu, fratello, non odiare. E tu, fratello, abbracciami. We'll be right back.